1500 espositori, 2300 imbarcazioni, delle quali ben 530 in acqua, per una superficie espositiva che supera i 100.000 metri quadrati. Questo in cifra è il Salone Nautico 2007 a Genova. Benvenuti a Dialoghi sul Mare dagli studi di Radio 24, ospiti di Fineco Leasing e Locat Leasing. Oggi è con noi Lorenzo Pollicardo, segretario generale dell'Ucina. Buongiorno Lorenzo Pollicardo. Buongiorno. Allora, abbiamo elencato velocemente le cifre di questo salone, abbiamo dimenticato qualche dato interessante che lei ci vuole ricordare? No, non avete dimenticato, ma è un dato che non si sa ancora, i visitatori. Il salone sta andando bene, i visitatori crediamo siano in linea con le passate edizioni, a conferma che la nautica interessa, che questo salone è un salone leader, a conferma che l'esposizione è un'esposizione per tutti, dalla grande barca alla barca più piccola. Ecco, questa esposizione così poderosa, così affascinante, è un ottimo biglietto da visita per un settore che è quello della nautica, in buono stato di salute, sembra emergere dai dati, e soprattutto per quanto riguarda certi settori, maxi yacht e imbarcazioni pneumatiche di medie e grandi dimensioni. L'Italia in questi campi è leader. Sì, noi confermiamo per l'ottavo anno consecutivo la leadership mondiale nel segmento dei grandi yacht. I dati sono ulteriormente a vantaggio dell'Italia, con una crescita non solo nel portafoglio ordini ma soprattutto nelle dimensioni medie delle barche, quindi su questo settore siamo primi al mondo ancora di più. Siamo, ed è una conferma, secondi al mondo nella produzione completa delle imbarcazioni, primi in Europa, quindi è una leadership importante che conferma un settore in evoluzione. E vale la pena ricordare che in questo segmento della nostra industria la produzione rivolta all'export è una percentuale molto significativa. Ecco, rimaniamo un attimo su questo argomento, sui maxi yacht, la grande produzione della nautica. Perché secondo lei l'Italia è vincente in questo settore? Dunque, ce lo siamo chiesti molte volte ed è chiaro che una risposta un po' generica, magari un po' scontata, può essere: queste barche hanno una forte componente di styling, tipica dello styling italiano, e quindi appaiono vincenti sul mercato perché c'è stile, c'è design italiano. In realtà credo che sia molto più profondo il discorso. Certamente questa è una leadership che dura da molti anni, quindi affidarla soltanto a un concetto di style credo sia riduttivo. Questo è un settore dove c'è molta progettazione, molta progettualità. È un settore in cui la customizzazione, cioè la capacità di rivolgere il prodotto alle richieste del mercato o del singolo armatore, è strategica, è importante. Però è anche un settore in cui comunque il prezzo, non si creda, fa comunque la differenza. Le nostre barche sono barche prestigiose, sono barche care, ma sono barche che hanno un rapporto qualità-prezzo molto valido. Essenzialmente le nostre barche sono ricche di componentistica interna che esprime quasi la maggior componente del design italiano sotto tutti gli aspetti. I migliori marchi dell'arredamento, i migliori marchi dell'elettronica, i migliori marchi della componentistica si trovano a bordo di queste barche. Quindi è un mix di componenti che ha fatto sì che l'Italia acquisisse una leadership quasi ormai un decennio fa, e non solo la mantenesse ma la consolidasse di anno in anno. Ecco, abbiamo parlato di leadership, ma insomma non è tutto rose e fiori, perché ci sono anche dei comparti che segnano il passo. Parliamo della piccola nautica. Sì, purtroppo non è una sorpresa, avevamo avuto qualche avviso negli anni precedenti, e i dati di cui abbiamo parlato ieri, che sono preconsuntivati sul 2006, comunque mostrano, ahimè, una conferma di una non crescita del settore della piccola nautica. Ecco, qui forse vale la pena fare un discorso abbastanza di dettaglio. È evidente che se noi andiamo a valutare quelle aziende produttrici di piccola e media nautica che hanno saputo, potuto, hanno avuto la forza di diversificarsi anch'esse sui mercati internazionali, troviamo comunque aziende che esprimono soddisfazione nel loro status economico e di business. Certamente se noi andiamo a valutare quelle aziende che fondano la stragrande maggioranza, la stragrande percentuale della loro produzione rivolta al mercato interno, al mercato nazionale, bene, queste hanno un problema. Di fatto il problema è del mercato nazionale, e quindi è un riflesso che si trova evidente tanto più quanto più l'azienda è vincolata al mercato interno. Perché il comparto nazionale segna il passo, ovvero la barca è ancora percepita come un lusso in Italia, qui da noi? Certamente occorre sfatare un mito. Francamente non credo che occorra sfatarlo tra la nostra clientela, occorre sfatarlo un po' tra i media, nella classe politica, presso le istituzioni. Obiettivamente da tempo noi diciamo la nautica è per tutti e francamente lo si dice retoricamente, ma i cosiddetti stakeholders istituzionali sono ancora lontani dal ben comprenderlo. Obiettivamente credo che siano ben lontani dal comprendere qual è il beneficio che il turismo nautico, inteso in senso di uso della barca, anche piccola, porta sul territorio. Presso la clientela credo che il problema sia un altro. La clientela del piccolo oggi ha la voglia, ha il portafoglio anche per acquistare una piccola barca, che oggi obiettivamente è vero, le parole del Presidente all'inaugurazione non sono retoriche, oggi acquistare una barca anche di medie dimensioni costa quanto avere un camper, obiettivamente. Avere una barca piccola, noleggiare una barca piccola, è un costo che è assimilato a quello di una vacanza di qualsiasi specie, quindi non c'è un problema di costo intrinseco della barca, indubbiamente c'è una difficoltà percepita nell'uso. È vero, il costo sui servizi accessori alla piccola barca rischia oggi di avere un potere deterrente nei confronti dell'acquisto della piccola barca. Ecco, lei ha parlato di costi accessori, quali sono? Proprio nel dettaglio? Bisogna essere pratici, guardi. Esatto. Obiettivamente, è vero che una barca di grandi dimensioni, dai 12 metri in su, 10-12 metri in su, deve essere ospitata in acqua, deve avere il suo posto barca nel porto turistico, ha un suo costo, però è altrettanto vero che è una barca che ha un costo intrinseco importante. Quindi se noi parliamo di una barca che costa 4, 5, 600 mila euro, obiettivamente spendere 10 mila euro, tra gli 8 e 10 mila euro per il posto barca in mare, è un prezzo compatibile col valore della barca. Oggi abbiamo un problema, nei porti turistici il prezzo, o meglio, il segmento minimo di ospitalità della barca nei porti turistici in linea di massima è intorno ai 10 metri, cioè che tu abbia una barca di 10 metri, che ce l'abbia di 8, di 6 o di 5, ti costa praticamente lo stesso tenerla nel porto turistico. Attenzione, non è sempre così, però purtroppo è un fenomeno crescente. E allora qual è la soluzione? La soluzione è parlare di ospitalità logistica tecnica delle piccole barche. Non è detto, non è vero che la piccola barca deve stazionare permanentemente in acqua. Abbiamo esempi all'estero, in Francia, in America, in Inghilterra, dei cosiddetti porti a secco in cui la barchetta piccola, anche media, onestamente in America si arriva fino ai 12 metri, viene tenuta in terra, in secca, a volte anche in posizione coperta, quindi anche più salvaguardata rispetto alla barca in acqua, e viene movimentata ogni volta che serve. Questo tra l'altro per il nostro paese è importante perché impatta molto meno sul territorio. Ecco, una soluzione del genere che in qualche regione, anche in Liguria tra l'altro, non lontano qua da Genova, è ospitata, è stata provata, è una soluzione vincente, permette di movimentare e assicurare servizi a un numero importante di piccole e medie imbarcazioni, soprattutto dà un grosso beneficio sul territorio e francamente fa percepire all'utente, al cliente, al diportista una maggior semplicità d'uso. Vale la pena ricordare che un natante, cioè quelle barche che hanno lunghezza inferiore ai 10 metri, oggi non hanno alcuna tassa né di possesso né di uso, non hanno alcun documento burocratico che le accompagna, non hanno immatricolazione, non sono sottoposti a visita periodica, quindi è evidente che il costo della barca è lo stretto costo di uso della barca. C'è quel minimo di manutenzione, oggi obiettivamente la barca piccola è quasi sempre una barca in vetroresina, quindi insomma, siamo, ahimè, dico ahimè per chi è affezionato al legno, insomma, ahimè lontani dagli scafi di legno che necessitavano di una manutenzione annua importante, anche costosa, per cui ritengo che i costi siano pressoché ridotti al minimo. C'è un costo assicurativo che obiettivamente è un costo molto basso, anche perché, ricordiamolo ancora una volta, le fatalities, cioè gli incidenti in mare, anche per le piccole barche, sono molto contenuti, ecco perché le polizze assicurative normative sono molto contenute. Ecco, lei poco fa faceva accenno all'ospitalità da parte dei porti turistici, quindi la capacità di accoglienza. C'è anche un punto critico riguardo a questo, che è l'aumento dei canoni demaniali di cui si parlava qui al Salone Nautico. Qual è il vostro atteggiamento nei confronti di questo? Guardi, l'atteggiamento è di critica fortissima. Questa è una piaga, è stato un pessimo esempio dato dalla politica. Non voglio dire dal governo, io dico dalla politica in genere, anche se questo è una legge, è un provvedimento nella legge finanziaria e quindi è un provvedimento strettamente del governo, però obiettivamente un pessimo segnale dato a non all'industria della nautica, ma data a proprio quella percezione da parte della classe politica in genere che il turismo nautico porti un beneficio significativo verso il paese. Aumentare fino a 8-10 volte i canoni demaniali per un operatore turistico nautico, per un gestore di porti, anche retroattivamente, vuol dire mettere a serio rischio, mettere a repentaglio la sostenibilità proprio del business, dell'attività di questo operatore. Cioè vuol dire che uno si è fatto un budget dei suoi costi annui e vede, lo ha fatto a lungo termine evidentemente, ha magari investito nel suo porto turistico contando anche su certi costi e oggi si vede questi costi moltiplicare a volte anche di 10. 12 volte mi sento dire, quindi è un provvedimento che va stigmatizzato come stiamo facendo, è un provvedimento che speriamo e auspichiamo il governo intenda presto ritirare, perché è stato formalizzato un anno fa con la finanziaria, poi come vuole la tradizione di questo paese ci si impiega un anno a renderlo applicativo. Oggi i nostri soci, gli operatori di porti turistici, vedono arrivarsi il nuovo canone demaniale e questo è un problema. Ecco, un altro problema, credo, parlando di porti turistici, sia il rapporto con aree marine protette e in generale con una politica di rispetto e di tutela dell'ambiente. Credo che Ucina si proponga come trade union tra le due realtà che possono sembrare così separate. Ma, è possibile una conciliazione tra le istanze diverse? Ma io qui sono veramente ottimista e dico non retoricamente, non ritualmente, che non è un problema, è un'opportunità. La verità è che questa nautica è una nautica assolutamente compatibile con l'ambiente, non è non impattante, è assolutamente compatibile. Parliamo di turismo nautico ancora una volta, non di nautica in senso stretto. Il turismo nautico nei confronti dell'ambiente esercita, per così dire, un'interazione, a cominciare dal suo prodotto, la barca, l'accessorio, il componente. Su questo l'industria, complice anche una serie di provvedimenti europei e non europei e nazionali di improvement dei requisiti ambientali del prodotto, della compatibilità, devo dire, le barche oggi impattano quasi zero nei confronti dell'ambiente. Abbiamo i motori a due tempi messi al bando, abbiamo motori a quattro tempi e due tempi in iniezione diretta che oggi sono di gran lunga all'avanguardia rispetto ai precedenti. Abbiamo barche che producono fumo e rumore in percentuale assolutamente irrisoria rispetto al passato. Abbiamo dei porti turistici che sono realizzati oggi in perfetta sintonia con l'ambiente, abbiamo un'utenza, quella diportistica, che francamente mostra un principio educativo sempre maggiore. Soltanto due giorni fa la Capitaneria di Porto ricordava che a fronte di un numero maggiore di barche iscritte, quindi anche grandicelle nei nostri mari, a fronte di una percentuale di giorni d'uso molto maggiore, la casistica degli incidenti è diminuita. Quindi vuol dire che c'è educazione alla sicurezza ed evidentemente anche al rispetto dell'ambiente. Quindi riteniamo che il turismo nautico sia un'attività compatibile. Ucina lo vuole dimostrare, dati alla mano. Ucina ha gestito per questi due anni un rapporto vicino e di partnership con le associazioni ambientaliste, con il Ministero dell'Ambiente, partnership culminata con un protocollo d'intesa firmato che detta linee guida per l'applicazione di semplificazioni e di maggiore apertura delle aree marine protette. Crediamo che oggi sia tempo di una nuova legge quadro nazionale per le aree marine protette e di questo intendiamo dibatterne al Salone. Ecco, lei poco fa parlava di educazione. Ucina sta facendo molto anche per le giovani generazioni. Qui, proprio qui al Salone, c'è un programma specifico che si chiama Navigar Mè Dolce. Perché avvicinare i giovani al mare e alla vela? Ma guardi, cucina rappresenta l'industria, quindi è corretto ed è giusto dire che l'industria deve fare il suo mestiere, l'imprenditore il suo mestiere è quello di produrre e vendere sul mercato. Quindi è evidente che il nostro progetto nei confronti delle scuole è un progetto che tende ad avvicinare la giovane utenza, i giovani al mare, alla nautica, cercando di creare dei piccoli diportisti, un domani dei grandi armatori, possibilmente. Però è altrettanto vero che non esiste educazione alla nautica senza educazione all'ambiente, al mare, alle tematiche del mare. Grandi nomi, illustri nomi della storia del nostro paese ci hanno insegnato che l'educazione al mare è un'educazione alla vita. Oggi crediamo che sia improprio vivere in un paese che che è abbracciato per 8.000 chilometri nelle sue coste dal mare e che non esista nelle attività extracurricolari in modo formale l'educazione al mare, l'educazione all'ambiente del mare, l'educazione ad avvicinare le generazioni al mare. Il progetto che Ucina ha, attuato attraverso i partner istituzionali, quali la Federazione Velica, la Lega Navale, sono i soggetti che sono normalmente, istituzionalmente preposti a far crescere la cultura del mare, dell'acqua, Ucina vuole promuovere questo progetto. L'obiettivo è quello che lo Stato italiano riconosca nelle attività scolastiche l'educazione alla nautica come attività educativa verso le nuove generazioni. Ecco, immagino, perché anche il mare è un simbolo di tante cose per tante persone. L'ultima domanda è un pochino più personale ed è per Lorenzo Pollicardo, segretario generale dell'Ucina, cos'è il mare? Questa domanda ha fatto bene a dire che è molto personale, perché ognuno il mare lo vive a modo proprio. Io sono praticamente, non posso dire nato in mare perché sono nato in Emilia, ma sono cresciuto in mare, mio papà è delle Cinque Terre, quindi io appena posso scappo sulla mia barchetta e vivo al mare, direi con un rapporto che è quasi di attrazione verso il mare. Francamente credo che chi non conosce il mare si perde molto. Credo che conoscere il mare voglia dire anche conoscere una parte del nostro mondo che per molti non è nota. Obiettivamente, quando io parlo della cultura della nautica e del mare, ne parlo anche a titolo personale, perché so cosa significa avere anche una piccola barca e poter fruire di questa bellezza. È una cosa che veramente vale la pena vivere. Va bene, noi ci fermiamo qui, ringrazio Lorenzo Pollicardo per la chiacchierata. Grazie a voi. Noi ci risentiamo al prossimo appuntamento con Dialoghi sul Mare su Radio 24.